ancora. Buonasera a tutti, benvenuti. Cominciamo? Sì, direi di sì. Mi spiace, purtroppo non abbiamo l'uso dei microfoni. Questa sera non c'è verso di farli funzionare. Non sappiamo perché. Ci si sente cerchiamo comunque di utilizzare la voce. Magari nel frattempo riusciamo anche a sistemare. Non è detta l'uso. Va bene, vi ringrazio per essere venuti. Il saluto dalla biblioteca lo porto io, da parte della direttrice e di tutti i colleghi. In questa occasione vorrei parlare un po' delle attività della biblioteca. In questo periodo ci siamo, diciamo così, fissati due giorni settimanali che facciamo delle attività. Il lunedì facciamo le presentazioni di libri, come in questa occasione, e poi abbiamo mercoledì invece che ci occupiamo soprattutto dei gruppi di lettura. Il lunedì, appunto il prossimo lunedì, vi voglio dire cosa faremo il prossimo lunedì, ospiteremo in quel caso Storie di donne nella storia. Viene rappresentato un podcast di Francesca Ferragina. Si tratta di storie di donne, appunto in particolare tre donne, Laura Bassi, Mileva Maric e Trotula De Ruggero, donne che appunto nella storia hanno avuto un ruolo importante, ma ovviamente sempre un po' minore rispetto a quello che può essere quello dell'uomo. E così parleremo di questo argomento, ovviamente essendo nel periodo della festa della donna che arriva tra pochi giorni. Per quello che riguarda invece i gruppi di lettura, avremo appunto nei prossimi due mercoledì i due appuntamenti, l'8 marzo, che è il prossimo mercoledì, con Localmente, che è il nostro gruppo di lettura di narrativa locale. Per questo appuntamento è prevista la lettura di Nonna Picassa, un libro locale appunto. Invece l'appuntamento successivo sarà il 15 marzo, appunto con invece Tutti i Saggi, che è invece un gruppo di lettura legato alla saggistica. Per quanto riguarda lunedì successivo, vi vorrei dire che c'è una un'eccezione a questa regola del lunedì e mercoledì. Avremo una presentazione di un libro su Vincent van Gogh di Giovanni De Plato, lo avremo martedì. Il moderatore sarà Giuseppe Maiolo e ci saranno anche Barbara Repetto e la nostra direttrice sarà anche presente. Per cui insomma tanti appuntamenti per la biblioteca, però siamo qui per un'altra cosa stasera. Siamo qui per Baltasar, ovvero Perché il male, Maria Giacometti, Rosetta Infelice Fronza. Ho il piacere di lasciarvi parlare e di ascoltarvi. Vi lascio la parola. Grazie. Buona serata. Grazie. La presentatrice. La presentatrice. A me. Sono davvero contenta di rivedere e la mia collega, perché siamo entrambe insegnanti di filosofia. C'eravamo le notizie, vi interrompo un attimo. Sì. Ce l'abbiamo fatta, se vuole. Ah sì, sì, forse meglio. Sì, mettiamo questo meglio. Sì, sì, ce l'ho fatta. C'eravamo con la mia collega docente di filosofia di Venezia, ci eravamo incontrate anni fa e abbiamo stabilito che sono tanti anni fa, quando lei aveva presentato questo suo bellissimo libro, questo romanzo su Spinoza. Spinoza è sicuramente uno dei miei filosofi prediletti e lei ha scritto questo bel libro che poi anche vi consiglio, no? Nella presentazione dell'autrice c'è scritto il suo impegno su questi terreni e trovate anche questo romanzo su Spinoza, molto bello. Ci eravamo incontrate al Centro Documentazione e Informazione della Donna, che adesso non c'è più. Allora, man mano, mi fa piacere, purtroppo, no? Dire che a Bolzano alcune istituzioni importanti che hanno lavorato per decenni, man mano scompaiono nell'indifferenza generale. No? Questo Centro Documentazione e Informazione della Donna è stato sfrattato dal luogo, no? Che aveva come destinazione da sempre ed è stato dato all'Istituto Musicale, e da allora scomparso il Centro Donna, scomparsi i libri, I libri pare che siano stati addirittura dati ad una in un magazzino, e io che avendo fondato il Museo della Scuola conosco i magazzini comunali, che sì, i libri siano stati dati addirittura a un magazzino comunale. Allora, e restano lì, Vittorio, il nostro incontro di allora purtroppo, no? Non ha continuità rispetto allora ad adesso. Stasera c'è un libro molto impegnativo, della mia collega Giacometti. Baltazar, ovvero perché il male, con un punto interrogativo. E ho chiesto all'Emanuela Lago, poiché noi siamo qui tutte in rapporti d'amicizia, se legge il primo momento di questo, le prime pagine di questo libro, in cui ci sono i protagonisti, i due protagonisti. Grazie Emanuela. Allora, leggo alcuni passaggi di questa pagina. Capitolo primo. Incontro tra Baltazar e il granchio. Il mare è liscio, cristallino, azzurro. Si estende all'infinito. Baltazar se ne sta immobile, ben piantato sulle zampe e lambite morbidamente dall'acqua. Ha lo sguardo perso verso l'orizzonte. Sulla groppa porta una fascia di tela con ai lati due sacche piene di libri. Non sente né fame né sete. È assorto. Non sa cosa fare. Granchio. Oibò, che ci fa un asino qui in riva al mare? Amico, ehi, amico, mi senti? Che fai qui? Baltazar si scuote dall'apparente torpore. Chi parla? Non vedo nessuno qui intorno. Granchio, sono qua giù, a poca distanza dalle tue zampe. Mi raccomando, stai attento a non calpestarmi. Mi presento. Sono un granchio violinista. Appartengo al filum degli artropodi, alla classe degli invertebrati, all'ordine dei decapodi, alla famiglia degli epocipodidi, al genere Luca. E tu sei un asino. Baltazar, scusami, ero assorto a guardare il mare e tu sei tanto piccolo, difficile vederti. Sono arrivato qui, non so come. Sono scappato da un luogo orrendo dove si sentivano rumori tremendi che accompagnavano terribili distruzioni di tutto, di case, di piante, di cuccioli di animali, di tutti gli animali. È lì che ho perso il mio padrone e cercandolo mi sono perso anch'io e adesso non so come ritrovarlo. Non so se sia vivo o morto e porto con me il bagaglio della vita trascorsa insieme. Interessante. Invece di essere contento per la libertà inaspettata, ti dispiaci. Vuoi davvero ritrovare il tuo padrone? E perché mai? Adesso sei libero e puoi fare quello che ti pare. Baltazar. Perché lui vuole bene a me e io gli voglio bene. Mi ha sempre trattato bene, come un suo pari. Mi cura, mi dà da mangiare, mi spazzola, mi tiene al caldo e in compenso io lo porto in groppa. E se vuoi saperla tutta, ci intendiamo molto bene e mi racconta tante cose. Grazie. Modestamente, ma anche dalla mia prospettiva rasomare, si osservano e si imparano tante cose. Per esempio, io so che gli umani hanno un modo per riferirsi gli uni agli altri, attribuendosi dei suoni particolari. Così non si confondono. Il tuo padrone come si chiama? Baltazar. Non lo so. Lui chiama me Baltazar, E quando grida questo suono, io rispondo e vado da lui. Ma come si chiama lui? Io non lo so proprio. Io non lo chiamo, ma so che di mestiere fa il filosofo. Vagabondo, perché siamo sempre in giro per il mondo, io e lui. Sulla groppa, come puoi notare, porto due sacche piene di libri. Lui legge e mi parla. Granchio. Io sono un granchio violinista, così mi definiscono gli animali umani. Se vuoi, possiamo andare insieme alla ricerca del tuo padrone. Io mi metterò dentro una cesta e cercherò di capire che cosa voleva comprendere. Vediamo cosa c'è qui. Ah, ecco, un bel quaderno pieno di appunti. Ecco il titolo, Il male. Come indagine filosofica mi sembra alquanto deprimente, non ti pare? Balthasar, sì, ma lui voleva capire perché c'è il male nel mondo. Lui leggeva e rifletteva sempre a voce alta e, da testimone, io l'ho seguito nei suoi vagabondaggi librari e ricordo bene quello che diceva. Vuoi sentirlo? Granchio. Certamente, sono tutto orecchi, si fa così per dire. Balthasar, partiamo dall'inizio della sua speculazione, partiamo dalla tragedia greca. Poi faremo un percorso intorno alla tradizione ebraico-cristiana. Poi vediamo, ci sono le scuole ellenistiche e la tradizione scolastica e così via. Cercherò di raccontarti le peregrinazioni filosofiche del mio padrone, così come lui le ha registrate nei suoi appunti. Grazie Manuela, grazie davvero. Ecco, allora abbiamo i protagonisti che si incontrano in riva al mare e i protagonisti sono il granchio violinista, che però nel corso del libro non si trova poi in nessun momento in cui in qualche modo egli eserciti questa sua peculiarità di essere un gran, non solo un granchio, ma un granchio violinista. Questa è una. Secondo, il grande testimone, il grande protagonista è l'asino. Allora, a mio parere, l'introduzione di testimoni che non sono persone, che non sono uomini, su un argomento così impegnativo, vedete che è stato detto, ma è stato detto dal granchio, ma insomma un argomento così pesante, dovrai impegnarti per un argomento così pesante. Chiedo come mai sono state un argomento così pesante è stato delegato a un dialogo tra due animali. E la mia considerazione è questa: in qualche modo, in un argomento così impegnativo che poi viene seguito nella storia del pensiero filosofico in modo sistematico fino all'età contemporanea, chiusa parentesi, come mai viene dato il protagonismo a degli animali? La mia idea è questa, che in questo modo ci si solleva rispetto ad un protagonismo di persone relative ogni volta ai tempi, e così infatti è nel corso del libro, e si predilige una relazione con testimoni che vengono comunque dalla tradizione popolare. Cioè gli animali non sono svincolati da una caratterizzazione. Quindi Non avrebbe potuto, non avresti potuto, ci diamo del tu, non avresti potuto togliere una, la caratterizzazione a questo animale. Poi però tu gli hai dato anche un nome, e questo è molto bello e vorrei che tutti ci fermassi, no? L'animale, l'asino, ha un nome ed è molto bella questa conversazione. Quando il granchio gli chiede, e lui come si chiama? Ah, dice, io non lo chiamo. Ma non lo chiamo, è lui che mi chiama. Allora, la caratterizzazione dell'animale qui arriva fino al nome. Allora vorrei chiederti se tu ci dici qual è la fonte di questo nome, Baltazar. Baltazar. Beh, intanto partendo, scusa, tornando indietro al granchio violinista, è perché io amo molto la musica e quindi il granchio violinista, la sua chela che ricorda il violino, però il granchio violinista ha solo la funzione di sollecitare, no, Baltazar, il racconto dell'asino, perché è l'asino che espone le teorie. Da dove nasce l'asino? Perché è un animale meraviglioso, l'asino. L'asino è un animale saggio, è un animale paziente, è un animale sapiente. E, insomma, nella filosofia, nella storia della filosofia, l'asino c'è dappertutto, e poi c'è una filosofia appunto che ha come protagonista l'asino, l'asino di Buridano. E il nome Baltazar nasce dal film Baltazar, no? Il film Baltazar di Bresson è un film, e difatti nel libro c'è anche un capitoletto che espone, racconta questo film, messo in bocca al granchio in questo caso, che dice: ma tu lo sai da dove viene il tuo nome? E Baltazar, in questo film di Bresson, che è un film in bianco e nero, secondo me, no, è uno dei film più belli della storia del cinema. È un film che racconta l'Odissea di quest'asino. È un film che appunto uno va, lo guarda, dopo 5 minuti comincia a piangere, piange per tutto il film e continua a piangere anche oltre. Perché Bresson era un regista molto credente e giansenista, cioè di quella corrente cattolica molto legata al purismo religioso, molto osservante e molto anche severa, no? E Baltazar, l'Odissea del Baltazar, non è altro che l'esposizione dei vizi umani, dei 7 vizi capitali. Tutta la sua storia, da quando, dalla sua infanzia fino alla sua morte, e quindi il passaggio attraverso i vari padroni, ogni padrone è l'esponente di un vizio capitale. E quindi questo film è un film sul male, che viene osservato dall'occhio da questo asino, che li vive e guarda questi umani e sopporta pazientemente. Il film è molto triste, perché ci sono solo 2 momenti felici, la sua infanzia e la sua morte, perché poi il film muore bene, uno dice, vabbè, almeno muore in un campo di fiori con le pecorelle, così. È un film tragico, ma di una bellezza straordinaria. Ecco, da qui nasce il nome Baltazar, quindi rappresentante, esponente, cioè no, esponente, l'asinello che ha visto il male all'opera degli umani, il male degli umani all'opera, e che quindi era il protagonista più adatto, era il nome più adatto per raccontare questa storia della filosofica del male, perché questa è una storia filosofica del male, come il male è stato concepito nella storia della filosofia. Sì, tutto il percorso è veramente un percorso cui man mano nel dialogo si dice andiamo in questo luogo, andiamo in questo posto, ti porterò, quindi ti porterò in Grecia, ti porterò nel Medio Oriente, eccetera, eccetera. Man mano sono i luoghi dove nasce il pensiero filosofico e lei introduce gli autori più significativi sul tema del male, quindi non viene mai abbandonato il filo conduttore. Invece nel tuo libro ci sono gli intervalli. Sì. E se io non avessi letto la tua biografia non li capirei. Gli intervalli. Allora, nella biografia della Giacometti, che potete trovare su internet, c'è scritto che lei ha tradotto, ha fatto delle traduzioni importanti, ha tradotto Freud. Quindi come avrebbe potuto fare un libro sul male senza qualche intervallo freudiano, dedicato freudiano? Ecco, e gli intervalli, allora, per me che sono stata sia a scuola come studentessa, ma soprattutto quando sono stata dirigente scolastica, no? L'intervallo era il momento in cui c'era una tale agitazione, no? In cui i ragazzi si manifestavano per quello che loro erano. Allora io ti chiedo se nei tuoi intervalli tu hai dato questo significato, un significato di introdurre elementi di riflessione che interrompono la storia della filosofia, la storia del pensiero sul male. Ed è come se tu ci ricordassi, ma attenzione, che ci sono degli autori sui quali bisogna fare l'intervallo. Sì. Gli intervalli sono stati pensati proprio perché, per due ragioni. Uno, perché non venisse fuori un manualetto. Ecco, per non fare un manuale. Il terrore del manualetto. Il manualetto. E poi perché il tema è pesante. E alcuni capitoli sono un po' difficili, sono molto impegnativi, io non lo so, poi dipende da chi conosce la filosofia, a quale periodo particolare della filosofia è affezionato, conosce meglio. Io conosco meglio la filosofia del Seicento, quindi la parte trattata, però è difficile. Allora gli intervalli interrompono questo percorso, questo filo conduttore, in modo da far respirare. Da far respirare. E non è che siano tutti intervalli, non sono intervalli allegri, che fanno ridere, sono semplicemente degli intervalli che introducono altri argomenti, più o meno però sempre in sintonia. Sì. Sempre, non è una rottura, no. È semplicemente un momento di, ecco, mi prendo un respiro. Un respiro che a volte, ecco, che deve anche illustrare le ragioni, no? Per esempio, perché l'asino si chiama Baldassare, allora racconta del film, oppure i diavoli e diavolacci, perché per introdurre l'epoca del Medioevo e quindi c'è un'escursione sui diavoli e diavolacci, sui diavoli per raccontare un po' per introdurre il periodo successivo medievale, che è attraversato dal terrore, dalla paura del male, dell'inferno, del peccato. Poi c'è l'elogio dell'asino, questo è una cosa che mi interessava, mi premeva particolarmente per il mio amore per gli asini, tutti gli animali in generale, ma l'asino, ecco. E poi c'è l'intervallo, quello sul cappone. Ecco questo. E sì. Questo che non lo trovo più. L'elogio che non lo trovo più, il cappone, e c'è un dialogo tra il cappone e la gallinella. La gallinella, ecco. E questo è un dialogo così, dove i protagonisti, qui il Cappone e la Gallinella, che stanno per finire arrostiti e mangiati, e insomma raccontano anche in questo caso, se la prendono con gli umani, che fanno queste cose tremende, no? Poi c'è la relazione per un'accademia, che qui volevo raccontare tutto il male che soffrono gli animali da un racconto di Kafka, relazione per un'accademia, tutti i mali, il male degli animali che vengono imprigionati, perché questo libro è un libro sul male che gli umani non producono e che producono a se stessi, alla terra e agli animali, e gli animali sono degli innocenti, cosa c'entra? Ecco, il mio problema era proprio questo. C'è il male, va bene, è un fatto. Poi c'è il male, è un fatto, perché c'è la morte, ci si ammala, ci sono i terremoti, ci sono i mali naturali, no? E la vita è fatta così, è fatta anche di mali, di beni, di mali e così. Però c'è un male, un surplus di mali, che gli uomini fanno a se stessi, attraverso le guerre, e poi... E ne vanno di mezzo gli innocenti. Cosa c'entrano gli innocenti? Ma perché? Ma perché? No? Questo per me è stato, da un punto di vista animalista, no? E cioè, ma perché? Allora ho preso le parti degli animali. Allora, per questo il dialogo è fra due animali che racconta il male degli umani, e poi ci sono questi protagonisti che sono animali che raccontano il male inferto a loro stessi. Il dialogo appunto della Pollastrella e del Cappone, e poi questa relazione di un'accademia, che poi questo libro, questo racconto di Kafka, anche lui aveva una grande sensibilità nei confronti degli animali, questo racconto è stato edito recentemente perché era introvabile. Io l'ho trovato per caso, poi da un mese e mezzo fa è stato edito di nuovo, ed è un racconto struggente. Nel senso che racconta come questa scimmia, da scimmia, diventa umana, diventa cioè si fa, trasforma il suo cervello scimmiesco in cervello umano e diventa un esponente dell'Accademia, e che racconta la sua storia, intrattiene e così via. Ed è un bel racconto. Nel limite in cui sono belli i racconti di Kafka, che sono sempre un po' così, no? Sì. Hanno sempre una morale i racconti di Kafka. Ecco, questo ho risposto? Sì, ah, e appunto questo intervallo dove c'è appunto il dialogo del Cappone e della Pollastra, man mano, dicevamo, negli intervalli vengono sollecitate considerazioni fuori dal percorso di storia della filosofia. Quindi, poiché io spero che voi leggiate questo libro, no? Sappiate che una lettura orizzontale è fatta nel percorso della storia della filosofia, quando appunto si dice adesso andiamo lì. Adesso andiamo nel Medioevo, adesso andiamo in quel luogo, adesso parleremo di Agostino, e fino ad arrivare proprio alla filosofia contemporanea. Poi invece una lettura verticale deve essere fatta con gli intervalli, dove io trovo in qualche modo la tua considerazione attuale, quindi per esempio questa dell'essere vegetariani, viene vista come una scelta che toglie il male agli animali. Ho visto l'altro ieri in televisione, hanno fatto vedere una scena che mi ha, proprio perché stavo leggendo il tuo libro, che ho detto, eccola, se lo vedesse lei, di come allevano in Cina, l'hai visto? Sì. In Cina i maiali. 1.200.000 maiali in un grattacielo, quindi due grattacieli enormi in cui ci stanno 1.200.000 maiali. Poiché, adesso, una mia considerazione, poiché noi comperiamo questi che vengono dalla Cina, e diventa lo specchio col quale noi facciamo i credere. Non dimentichiamolo. Allora, come si fa a fermare questo male? Il male nei confronti così, è così abissale ed è, e noi siamo così impotenti, a meno che, come dice la, come dice lei, non si diventi vegetariani. Cioè sono scelte alla fine che interrompono la sequenza, interrompono una sequenza che altrimenti è inevitabile. Dopodiché il essere rispettati come vegetariani non è del tutto facile. Non so, io ho la famiglia di mia figlia tutta vegetariana, ed è un problema se dobbiamo andare in un ristorante. Però adesso sono riusciti a far rispettare anche nelle mense scolastiche, no? Però i miei nipotini, che sono piccoli, no? Vengono considerati diversi e non migliori, non migliori. Cioè non c'è mai il riconoscimento che nella scelta vegetariana c'è un rispetto per l'animale, per cui tu non mangi il tuo simile, quello che appunto in questa letteratura viene indicato come simile. Simile, sì, sì. Ecco. Posso solo sì? Sapere che c'è anche un altro libro che induce alla scelta vegetariana ed è di Safran Foer, quello che ha scritto Ogni cosa illuminata, è anche uscito un film tanti tanti anni fa, Ogni cosa illuminata, che racconta la giovinezza di questo ragazzo durante il periodo nazista. E questo film si chiama Se nulla importa, perché mangiamo gli animali? E non è un romanzo, è un librone così, ed è un saggio di 300-400 pagine sugli allevamenti intensivi, in questo caso in America. Di maiali, di mucche, di polli, ed è una tradizione quella americana degli allevamenti intensivi, perché lì sono nati i macelli di New York, no? I macelli di New York, non di Amsterdam, e con questa divisione scientifica del lavoro nei macelli, ed è un libro veramente toccante ed è anche angosciante, per cui uno finisce dopo aver letto con raccapriccio, perché si resta molto colpiti, dice adesso non mangio più. E anche questo va letto. Poi uno può anche continuare a mangiare la carne, perché ci sono situazioni in cui gli animali sono allevati, cioè fanno una vita felice, no? Ci sono delle fattorie, dei modi anche. Sì, adesso anche nei supermercati c'è la distinzione, sì, con animali, sì, allevati a terra, cioè anche, sì, a terra non vuol dire niente. A terra non vuol dire niente, sì, perché significa terra rispetto alla, esatto, gabbia. Però per esempio il biologico, se funzionasse, perché questo non sappiamo, implica uno spazio per ogni animale, cioè una vita decente, una vita dignitosa, una vita da un minimo felice, insomma, almeno un poco, non queste cose orrende, degli allevamenti intensivi, sia in Cina, in Germania, fanno dappertutto, non è solo la Cina. Sì, non è la Cina che poi ci portano i virus, no? E l'altro aspetto che vorrei che tu approfondissi è il dialogo. Cioè noi abbiamo attraversato tutta la storia della filosofia, dicevo, fino ad oggi, poi ti chiederò di fermarti su due autori che io prediligo, uno è Agostino e l'altro è l'Arendt, no? E il dialogo, il confronto, cioè questa è una scelta fondamentale di questo libro, no? Cioè il granchio violinista, che appunto rivela solo che la scrittrice ama la musica, perché poi non c'è nessun momento in cui lui suona qualcosa, no? E l'asino dialogano. E io ho notato che nel dialogo, il dialogo non è mai un confronto, è sempre un andare in sequenza, per cui non c'è mai il momento della noi ci aspettiamo sempre che il dialogos ci siano momenti in cui la verità dell'uno non coincida con la verità dell'altro. No, in quel caso i due si affiancano nel fare queste soste nella storia del pensiero occidentale sul male. Sì. Il dialogo è stato scelto, che è un modo più semplice per rendere più agevole per me l'esposizione e per chi legge la lettura di concetti molto tosti, ecco, difficili, di un concetto così difficile come quello del male, quindi è proprio per me è stata una scelta di metodo. Ovviamente la mia reminiscenza sono i dialoghi di Platone, solo in effetti, a differenza che nei dialoghi di Platone, dove c'è una maieutica, no? Perché bisogna tirar fuori una verità da parte Socrate, che svolge questa funzione maieutica nei confronti dei suoi interlocutori, per arrivare a esporre un concetto, io dovevo esporre una materia data. Io volevo esporre a un lettore, pensiamo anche al lavoro dell'insegnamento, l'insegnante espone agli altri e deve esporre a una classe e deve esporre dei concetti difficili, per esempio che cos'è l'idea, che non è una roba facile, dei concetti difficili in una maniera il più possibile facile. E la forma del dialogo in questo caso è semplicemente espositiva, dove il granchio sollecita soltanto, chiede spiegazioni, è come il maestro con l'allievo. Allora la funzione di Baldassare è quella di espositiva e l'altro fa da contrappunto, è una cosa musicale, che fa da contrappunto. Da un lato dice mi spieghi questa cosa qui, quello che hai detto da un lato, dall'altro è lui che dice guarda che io questa notte ho letto, e allora aggiunge qualcosa, ma non c'è un dialogo nel senso dei due che si confrontano e che possono su un determinato tema esporre le loro idee. No, proprio perché il libro è un libro di esposizione di teorie, esposizione di dottrine. Ecco, questo è il senso. Sì. Questo è chiarissimo. Vorrei fare una piccola digressione sulle illustrazioni. Questa Turchetto, Maria Turchetto, Maria sì. Turchetto ha fatto delle illustrazioni molto belle. Sì. Quindi questo libro può essere anche sfogliato per le immagini, a mio parere in modo molto, molto discreto, perché tu non lo dici da nessuna parte, questa cosa qui, in modo molto discreto, quando si sfoglia il libro ci si ferma e ci si ferma sulle immagini e restano e sono significative, ti fanno appunto pensare senza appesantire. Ecco, io trovo che i disegni della Turchetto in questo libro hanno proprio la funzione di alleggerire. Ecco, qui c'è proprio lui, Baltazar, che pensa. Ecco, è proprio il momento in cui tu immagini questa bestia che ti deve accompagnare in tutta la storia della filosofia, e quindi col disegno, con l'immagine, ti viene ricordato che è bene che tu ti fermi e pensi. E pensi. E pensi. Ecco, perché l'oggetto, come tu hai detto, l'oggetto che hai scelto per fare questo percorso filosofico, come ha detto il granchio all'inizio, ma è una cosa molto pesante. Adesso io vorrei chiederti se tu ci esponi il pensiero di Agostino sul male. Ma breve, sì, breve, sì, per carità di Dio, per carità di Dio. Non siamo così. Allora, che viene l'Agostino, dove sta Agostino? Dopo l'agnosi. Sì. Agostino e Tommaso, no? Agostino e Tommaso. Agostino e Tommaso. Sì. Il pensiero di Agostino sul male ha reminiscenze, cioè sul male è questo, che non c'è il male. Non esiste. Non esiste il male perché tutto ciò che è stato creato da Dio. E quindi tutto ciò che è in quanto creato da Dio è bene. E qualsiasi cosa è bene finché mantiene che cosa? Mantiene una sua organizzazione funzionale, che Agostino coniuga nei termini di forma, no? Soprattutto di forma. Una forma, cioè qualcosa di informe, cioè non è brutta, non è solo brutta, ma è anche dal punto di vista estetico. Ecco, anche dal punto di vista di Agostino è qualcosa di male, perché quello che ha fatto Dio è fatto secondo decoro, ha fatto secondo un ordine molto preciso, che è quello che mantiene una funzionalità delle cose e una sua vita, è la vita delle cose. Allora da dove viene il male? Dal punto di vista, allora, se, dal punto di vista di Agostino ci sono due tipi di male. Uno è il male cosiddetto metafisico. Dio è il bene, che si scrive con la B maiuscola, ed è qualcosa di perfetto. Tutto ciò che Dio ha fatto, siccome l'ha fatto dal niente, dal nulla, è un essere di grado inferiore, ovviamente. E che proviene dal nulla, porta in sé questo nulla, e questo è il male, che è la morte, per esempio, la fine delle cose. Questo è il difetto di perfezione di un creato. C'è Dio che è perfetto e il creato, che non può essere identico a Dio, ma è diverso, quindi c'è una differenza, e quindi questo è il male ontologico. Questo non è altro che un ricordo di Platone. Ecco, detto fra noi. E poi soprattutto per Sant'Agostino, come ovviamente i padri della Chiesa e tutti i pensatori dell'Occidente, a partire dalla tradizione ebraico-cristiana, il male maggiore è il male del peccato, il male morale. In questo caso si tocca il problema dell'anima, che è contaminata dal male, quando secondo Agostino, a partire dalla Bibbia, quando non obbedisce ai comandamenti di Dio, o quando più che altro sceglie invece che Dio, e quindi una vita legata alla figura di Dio nel termine di una vita religiosa, di una vita non nel senso di fare i preti, nel senso di obbedire ai comandamenti, di una vita buona, no? Ecco, quando sceglie qualcosa di inferiore, qualcosa di diverso, allora sceglie il vizio, sceglie la smodatezza. Nella scelta del male come scelta, di un bene inferiore rispetto ad un bene superiore, di un bene inferiore rispetto al bene superiore che è Dio, e la religione, e la Chiesa, in questa scelta l'anima si corrompe, diventa smodata, diventa informe, c'è il vizio, e questo è il peccato. Prima il peccato di disobbedienza e poi tutto quello che comporta. E allora accanto a questo male, il male del peccato, però c'è un altro male che, che però diventa, dal punto di vista di Sant'Agostino e dei padri della Chiesa, è il male fisico. Da dove viene il male fisico? È la pena. Tutti gli uomini patiscono, soffrono per espiare il loro male, perché hanno peccato, perché hanno scelto un bene inferiore. Però questo male, questo fisico che è la pena, che è espiazione, in un certo senso è una forma di giustizia, è una forma di bene, perché dovrebbe portare sulla retta via. Ho finito, vuoi qualcos'altro? No, e poi, ecco, no. Adesso, poi. Ecco, e poi no, c'è anche un altro concetto, che questo è molto interessante. C'è un altro concetto: non si può giudicare il male dalle singole parti, cioè noi siamo individui che soffriamo e allora ci chiediamo: ma perché devo soffrire? Ma perché questo? Perché quell'altro? Allora, quello che bisognerebbe considerare, secondo Sant'Agostino, che poi sarà il tema di Leibniz, sarà il tema, è che la creazione dell'universo da parte di Dio, in quanto tale, è bella ed è un tutto. E quindi non si può guardare il tutto da una singola parte. È come vedere un quadro da un angoletto riposto sulla, da un angolo. No, invece che guardare tutto il quadro, coprire il quadro e vedere solo, giudicare il quadro dall'angoletto che si vede, oppure una sequenza di un discorso, non si può considerare il discorso da una singola parola o una parola da un singolo suono, bisogna avere la totalità della parola e la totalità del discorso per capire. Ecco, è che noi non abbiamo la visione del tutto, però dovremo affidarci alla fede per poter dire che è bene il tutto. Sì, ed è molto interessante questa negazione del male da parte di Agostino, così come egli ha negato il tempo. Sì. Quindi sono in un certo senso due corrispondenze. Il male non esiste, è solo privazione del bene. E privazione del bene. E privazione del bene, quindi l'aver meno, l'essere di meno, no? Ma non c'è la ontologia del male in Agostino. Ecco, questo è molto interessante, perché poi Agostino ha influenzato tutta una serie di pensatori cristiani, anche contemporanei, penso soprattutto all'indirizzo francese, per cui fanno riferimento ad Agostino proprio perché rispetto all'ontologia del male, del demonio, delle sofferenze, delle punizioni che vengono anche dopo, no? La morte. Ecco, Agostino ha dato questa liberazione del male come pura privazione del bene, quindi come assenza del bene. L'altra cosa che ti vorrei chiedere, perché poi diamo la parola al pubblico, e quindi saltando molto, no? È sulla Arendt, Hannah Arendt, la sua tesi della banalità del male. Noi a Bolzano abbiamo una predilezione per la Arendt, a parte che io ho scritto anche sulla Arendt, quindi a parte me abbiamo una predilezione, abbiamo intitolato una scuola professionale di lingua tedesca intitolata da Arendt, e poi abbiamo una piazza dove nel depotenziamento di un monumento è stata scritta questa frase, che non è della Arendt, che è di Kant, però la Arendt riprende su: non obbedire non è un diritto, l'obbedienza non è un diritto. Quindi il concetto fondamentale che viene fuori dall'opera della Arendt sulla banalità del male. Ecco, mi piacerebbe che tu mi dicessi cosa pensi di questa opera. E ti volevo dire, ci sono due refusi nel... Sai che noi scriviamo... Sai l'hai visto? No. Che Eichmann è scritto ogni tanto male. Sì. Allora, tra noi che scriviamo, quando ci fanno i refusi, guarda... Ma non si finisce mai. Non si finisce mai. Non c'è santi, non c'è santi, chiusa non si finisce mai. Ecco. C'è anche poi una virgola di troppo, un altro... La virgola di troppo io non l'ho vista. Sì, sì, invece io... che hai... No, no, una virgola mancante. No, no, una virgola di troppo, ecco. Una virgola 100. Cioè una... Non si finisce mai. No, non no, si finisce appunto. E niente, ovviamente la banalità del male, cioè perché il capitolo sulla Arendt è appunto a partire dalla banalità del male, perché volevo illustrare il regime nazista come male assoluto, perché ovviamente il male assoluto, perché peggio di quello che è stato non c'è, anche se può essere ripetuto, ma dal punto di vista della sostanza credo che sia inarrivabile, no? Dal punto di vista della sostanza. Allora ho pensato di parlare del male durante la Germania nazista attraverso il testo La banalità del male, che ha due risvolti questo libro. C'è la banalità del male nel senso degli uomini che la fanno, che sono in un certo senso imbricati dentro un sistema e non se ne accorgono e non sanno, no? Perché Eichmann appare come un ometto. E allora in realtà tutti i gerarchi si sono durante il processo, no? Si sono difesi dicendo: ma io ho obbedito, ma non si sono resi conto di obbedire a qualcosa che comportava un orrore, che comportava qualcosa che andava contro la coscienza. Il problema grosso è che non c'è la coscienza. Quello che dice l'Arendt, non esiste la coscienza in questo caso, perché uno si trovano uomini come dentro per l'appunto una macchina che deve funzionare, e quello che conta è la funzionalità della macchina, che tutto debba funzionare bene, e tutti sono coinvolti. Tutti sono coinvolti, quindi qualsiasi persona dentro questa macchina, che è una macchina di sterminio, che è una macchina, come dice l'Arendt, di produzione di morte, che non produce prodotti, produce morte e basta, non si rendono conto perché sono diventati ingranaggi di una macchina. E quindi c'è una disumanizzazione della società intera, oltre che degli uomini. Non esiste questa società che abbia al proprio interno istituzioni, meccanismi razionali in cui ci si rapporti in termini che non siano appunti di disumani, di puro ingranaggio, di puro sequenza di momenti meccanici. L'altro aspetto è quello del linguaggio, perché nella Germania nazista è proprio il linguaggio diventa veicolo di male, perché il linguaggio viene trasformato per far trasformare le persone e le azioni in strumenti di questa macchina, perché qua è importante la tecnica. La Arendt ce l'ha con la tecnica, qui non è un problema di semplicemente politico di società che funziona per produrre, per fare la guerra e produrre la morte. È proprio che questa società è una macchina e funziona come una macchina, e quindi la tecnologia è importante, ed è una tecnologia che deve essere razionale, che deve essere secondo principi appunto di ragione, principi razionali, di funzionalità. Ecco, la cosa è che a me viene in mente leggendo, no? Che dice la Arendt che tutti, che poi erano brave persone tutti quanti fuori, nella loro famiglia, nel loro chiuso, persone che amano gli animali, che amano i figli, proprio persone normali. Che amano la musica. Che amano la musica. No? Però questa normalità è descritta in questa maniera, è qualcosa di pervertito, è una perversione, perché questa normalità diventa paradossale e in contraddizione con la normalità del funzionamento della macchina, che disumanizza gli uomini e che li fa rendere capaci di atrocità. senza che nessuno si potesse chiedere come, perché e per quando. Ecco, oppure gli uomini che dicono io devo obbedisco solo agli ordini, anzi sono kantiano, anzi la morale kantiana, che è la morale iscritta dentro di me, no? E dove io sono il legislatore di questa morale, la morale kantiana, no? Mi fa essere un uomo morale. E no, perché intanto, e qui ha ragione Hegel, non esiste una moralità della legge come pura legge, dice obbedisci e basta. Bisogna avere, sapere a chi e a cosa e perché si obbedisce. E questo lo dice Hegel. La moralità kantiana è astratta, perché il volere per il volere il bene non esiste nella natura della società, non esiste in natura, non esiste, esiste sempre un insieme di costumi, di leggi, di relazioni dove noi nasciamo, e questo ci fa aprire gli occhi. Invece la moralità kantiana, che è una grande morale, è stata veramente, no, rovesciata in qualcosa che il povero Kant non pensò che sarebbe veramente, cioè se ci vede, se ci ascolta, no, è veramente infelice, ma come? Non era proprio, non era questo che io volevo, ho risposto. Sì, sì, bravo, mi risponde. Grazie, grazie. Io adesso darei la parola a voi, potete chiedere qualsiasi cosa, sul male nella storia della filosofia. E comunque la domanda, ovvero perché il male, da questo libro viene storicizzato. Sì. Cioè noi non possiamo pensare che una volta che andiamo nei luoghi dove i filosofi si sono confrontati con il problema del male, noi siamo esonerati dal chiederci perché il male. Cioè, e questo è il dinamismo vero e proprio di un'opera filosofica, che non dia una soluzione al problema, ma che in qualche modo articoli la domanda. E questo libro articola molto, molto bene la domanda, appunto, nella storia della filosofia. Non abbiamo parlato qui di Nietzsche, perché non è possibile affrontare ogni cosa, e però c'è, vi ripeto, il momento in cui anche chi non ha la voglia di un percorso filosofico, di avere delle pause, di avere delle pause. Quindi il libro in qualche modo vi invita anche ad avere delle sospensioni, perché un tema così grave come il male, no? Senza delle sospensioni sarebbe stato davvero un testo che avrebbe tradito quel che voleva, un dialogo tra due semplici testimoni. Ecco, l'asinello Baltazar cosa porta? Porta degli appunti, porta dei libri. Allora, ognuno di noi sa benissimo che per i problemi che noi abbiamo ci sono libri e ci sono appunti, che io dico ogni tanto quando scrivo uno dei miei testi filosofici, ecco che scendono i libri dalla mia biblioteca. E qualche volta i libri che scendono dalla mia biblioteca non l'ho proprio deciso io. In qualche modo gli autori che io ho studiato e che quindi sono lì nella biblioteca, in italiano, nella loro lingua originaria, in tedesco, eccetera, se io affronto un problema scende il libro giusto. Non me lo porta l'asino Baltasar, però scende il libro giusto, no? Quindi ognuno di noi può identificarsi con l'asinello che porta sul problema, porta i libri, ma porta soprattutto gli appunti. Gli appunti, ecco. Questi sono elementi importanti che per lei, che ha tradotto Freud, studiato Freud e fatto anche, mi sembra, degli incontri di psicoterapia, no? Importanti, così ho letto sulla tua biografia. Ecco, e quella degli appunti è molto importante, perché il momento in cui ciò che ci accade in qualche modo viene fermato, diventa scrittura, diventa una scrittura. Allora, il granchio ha questo luogo, ha questo ruolo importante, no? Di leggere gli appunti, quindi non basta il somaro che porta i libri, perché ci vuole il momento in cui qualcuno legge gli appunti. Allora, nel caso della narrazione dei sogni, ecco, indipendentemente, parlavamo oggi, se uno fa una seduta psicanalitica oppure no, però occorrerebbe che il sogno, cioè ciò che in qualche modo si è nascosto nella nostra psiche ed è riemerso sotto la forma di un racconto, di una o un incubo, ecco, sia in qualche modo fermato proprio per l'equilibrio della nostra persona. E quindi io direi che in quest'opera viene, oltre che affrontato il tema da un punto di vista della storia del pensiero filosofico, vengono anche dati spunti su come ognuno di noi si confronta col suo ben essere. Ecco, io penso che in questo senz'altro il riferimento ad Agostino è importante, no? Non c'è il male di per sé, ci può essere un ben essere, che va scritto col trattino, dobbiamo dire. Va scritto col trattino. Che va scritto col trattino, cioè un essere che ogni volta deve essere misurato. Deve essere misurato con le dimensioni esterne, con le proprie, e anche con quelle che sono le rappresentazioni che ciascuno si è fatto di sé. Quindi non basta che qualcuno mi dica da fuori questo è bene per te. Se vediamo quando noi abbiamo un rapporto con i giovani, noi gli educatori sappiamo sempre qual è il loro benessere. Ecco, è impossibile senza un rapporto con i giovani in cui loro si confrontano con noi, no? E qualche volta nel disagio, qualche volta nella protesta, qualche volta invece in una presa di posizione positiva, no? E i giovani disegnano il tempo. Disegnano il tempo. Non noi possiamo disegnare il tempo, ma è una interconnessione tra noi e le generazioni che ci hanno preceduto e da cui raccogliamo la memoria. Quindi una società come stiamo facendo noi qui, Gheorghe, a Bolzano, una società che in qualche modo ha un gruppo linguistico che perde la memoria, che non ha la cura di ciò che ha costruito, fatto, eccetera, eccetera, e dopo un po' cammina su un terreno in cui è destinato a sprofondare, no? Cioè senza la memoria non è possibile questo benessere, il benessere è la possibilità di uno sguardo indietro per poter andare anche avanti. Allora, io chiuderei il mio intervento e direi, se voi volete fare delle domande alla nostra così. Scrittrice. No, vabbè. Sì, io devo dire che mi trovo un po' spiazzata, ecco, perché rispetto, io ho letto il testo, ho letto il libro, e nella mia ignoranza, perché devo dire che la filosofia non entra nei miei interessi principali, quindi i miei ricordi sono essenzialmente quelli liceali, maturati all'epoca della tua giovinezza. Esatto, anche se insomma comunque nel corso della vita ho avuto modo, ecco, di riflettere su determinate cose, e poi ultimamente in questi ultimi anni anche a maggior ragione con Rosetta. Per cui insomma, non so, io comunque le pongo le mie domande, ecco, perché così, quello che mi ha colpito leggendo questo libro è che in effetti non ho trovato un delineare, ecco, quello che è il concetto, non lo so, per conto mio, ecco, almeno dico per me, sarei partita dal dire che cos'è il male, nel senso che se io voglio descrivere un qualche cosa, parlare di un qualche cosa, una mela a una persona che non conosce, ecco, che cos'è una mela, dovrei cominciare a dire intanto, non so, che è un vegetale, che è il frutto di un albero, che quest'albero invece, ecco, per dire. Per cui, quando io trovo questo titolo, cioè, quindi questo libro che parla del male, prima di tutto mi dico, vabbè, ma che cosa intendiamo quando parliamo del male? Perché se io penso al male, penso almeno a due diversi aspetti. Cioè, uno che è il male, così, diciamo come fatalità, come evento accidentale. Penso al terremoto, a un sasso che si stacca dalla montagna e mi casca in testa. E un altro aspetto è invece quello di un gesto intenzionale, di un atto intenzionale, quindi un qualche cosa che viene commesso da qualcuno. Ecco, io questa cosa insomma, non l'ho trovata, mi ha lasciato un po' sconcertata, per cui vorrei chiederle, e forse in parte ha già risposto, non lo so, ma comunque vorrei chiederle, quali sono le ragioni che l'hanno portata a non definire che cos'è il male? Sì, forse prima perché... cosa, sì, la seconda cosa. L'altra, perché l'altra riflessione che ho fatto io è direttamente collegata a questo, a questi due aspetti che io noto, o comunque che la mia rappresentazione, ecco, sono presenti nel concetto. E cioè il fatto che mi è sembrato di cogliere, ecco, nell'escursus che lei ha fatto, che i vari filosofi che lei cita, o le correnti anche di pensiero, ecco così, in qualche modo, a mio parere, quindi vorrei capire cosa poi ne pensa lei, sono piuttosto parziali, cioè hanno parlano del male in modo parziale, monco, secondo me, perché trattano o il male come un tutt'uno indistinto, almeno così l'ho inteso, ecco, per esempio, se il male viene inteso come la volontà volontà degli dèi, insomma, che dispongono le cose. Allora, che sia un fatto accidentale, una fatalità, o che sia un atto intenzionale di qualcuno, non ha importanza, è volontà degli dèi. Oppure viene trattato come un atto, l'atto intenzionale, ma trattando questo aspetto come se fosse il tutto, senza vedere anche l'altra parte. Perciò io mi dico, è realmente così, cioè ho inteso bene, ecco, nel leggere il suo libro, e lei comunque come la vede rispetto a questo? Ecco, queste sono le mie domande. Grazie. Sì, allora, per quanto riguarda la definizione, cioè io non saprei definire il male e credo che... Allora, mi spiego, io sono stata un'insegnante di filosofia, ma di storia della filosofia, e sono una storica della filosofia. E quindi tutta la mia conoscenza filosofica riguarda la storia della filosofia. E ho imparato che ogni concetto, per quanto definito, cambia. Cambia storicamente, cambia. Il concetto di idea in Platone non è il concetto di idea in Aristotele. Allora, la definizione del male non è altro che il libro. Alla fine, fatto il percorso, hai una serie di definizioni che sono quelle dei filosofi legate al loro tempo, legate al loro tipo di filosofia. Ma una definizione definitiva, secondo me, non esiste. E non potevo. E non potevo quindi partire da una definizione. E difatti il mio intento era stato quello di parlare della storia, no, filosofica del male. Ecco, da dove viene, e partendo da due tradizioni, quella greca, della tragedia greca, e quella ebraico-cristiana che ci coinvolge, perché quella ebraico-cristiana, no, arriva fino ai giorni nostri, invece quella greca è rimasta greca ed è semmai un ritornare a guardarla, perché è saggia ed è laica, non è legata a nessun dio ed è legata semplicemente all'immanenza della nostra vita. Il male che cos'è? Il male è la morte. Ecco, questa è una definizione di male, la morte. Poi dalla morte vengono fuori tutti gli altri mali, no? La malattia, tutte le cose che succedono che fanno morire le cose, i terremoti e così via. E se poi prendiamo in considerazione gli uomini, il male che gli uomini fanno a se stessi e agli altri, e quindi le guerre, no, soprattutto le guerre. Oppure dal punto di vista morale, perché una cosa è la cosa fisica, dal punto di vista morale, non so, l'invidia, allora Aiace che invidia Ulisse, ecco, c'è una bella, c'è la, adesso non mi ricordo il nome di questo, un antropologo che ha fatto una bellissima lettura di Shakespeare, che fa come definirebbe il male, come invidia. Adesso non me lo ricordo questo autore, ha scritto un libro su Shakespeare, non mi ricordo. E l'altra domanda non l'ho capita, vero? Adesso sinceramente, cosa vuol dire che è parziale? È ovvio che è parziale. Questa mia considerazione iniziale, appunto. Sì, ma tutte sono tutte parziali, è evidente, perché sono legate a certi soggetti, a certi sistemi filosofici storici e basta, ed c'è tutta una storia, ecco, la storia della filosofia non è altro che la storia dei primi concetti filosofici che sono stati elaborati e che sono mano a mano poi cresciuti a seconda dell'epoca e a seconda delle problematiche dell'epoca e a seconda della genialità dei filosofi, no? A seconda della genialità e di come si ponevano loro stessi di fronte al mondo. Io sono appassionata di filosofia da questo punto di vista. È chiaro. È chiaro. Questo è evidente. Questo è chiaro. Posso chiedere per una cosa? Ma io mi rifaccio a una lettura di un romanzo, però. Parlando di Sant'Agostino, lei dice il male non esiste, è diciamo una sottrazione rispetto al bene, un qualche cosa di inferiore rispetto al bene, no? Allora, questo libro che a me è piaciuto molto parla di un magistrato, un credente, che si interroga sui limiti della giustizia umana che lui deve comunque esercitare e la giustizia divina che tiene sempre conto della compassione. E allora c'è una biblista che cita un passo della Bibbia che viene ripreso da Dylan Thomas, il quale dice: alla fine la compassione, lo cita in inglese, il testo è la compassione ti farà fare parte di tutto questo bene, perché ti giudicherà solo secondo un concetto di compassione che è il concetto del bene. E non so, è possibile o è solo romanzo questo? No, per quanto riguarda la giustizia, ovviamente la giustizia umana non è cioè, ha i suoi limiti e anche questa è storica. E quindi io credo davvero che un giudice si trovi a dover pensare quando deve giudicare, perché cioè, deve giudicare, lui è un uomo, segue la legge, c'è la legge, e ogni legge è sempre diversa, però lui è un uomo che deve applicare la legge ed interpretarla. E quindi questo tema della... E questo, non può tenere conto della compassione. E questo non lo so, perché io penso che si possa tenere conto della compassione. Dal punto di... ci sono due cose che le posso dire. Uno, c'è in questo libro c'è la filosofia di Schopenhauer che riprende il tema... così che cioè, il mondo è quello che è attraversato dalla volontà di vivere, no? Cioè il mondo è semplicemente un divenire che macina tutto praticamente, macina tutto nel senso che tutto ciò che è alla fine sparisce, dopo quello che è scomparso comunque rinasce nuova vita. L'accento di Schopenhauer è posto sul lato, come Leopardi, no? Sul lato del perire delle cose e non sul lato delle cose che in fondo prima di perire restano. Però c'è anche l'idea di Schopenhauer, è quella, ci deve essere un sistema per sopportare questa cosa, per sopportare questa macchina, no? di questo continuo divenire di vite di morte, di vite di morte, di vite di morte, di desiderio, di nuovo desiderio che si nullifica. Ecco, e uno è la compassione, cioè un modo per tenere da parte il dolore è proprio, parlando degli umani, degli uomini, perché gli animali non hanno compassione, gli animali fanno quello che sono, no? È proprio quello di compatire, di patire assieme agli altri, di mettersi nella parte degli altri. Secondo me anche gli animali compatiscono. Sì, difatti ci sono anche dei testi che fanno vedere l'aspetto... Capisce se tu stai male. Sì. Capisce, vero, ha ragione. E ci sono anche delle ricerche che fanno vedere che gli animali hanno simpatia. E, appunto questo fatto della compatire ti fa stare tutti nella stessa barca e allora uno no, non vede solo se stesso ma vede anche l'altro e quindi insieme possiamo sopportare e vivere. Ma c'è il tema poi della compassione, il tema veramente cristiano direi, no? Il tema della compassione, perché Cristo guarda con occhio compassionevole, no? È venuto qua e guarda soprattutto gli umili, quelli che soffrono di più, e io non sono credente, però quel poco che ho capito questo, no? che è compassionevole. L'unico per me problema è che poi questa compassione, cioè in questo mondo, non so, bisognerebbe costruire una società un po' più compassionevole. Però capisco che il problema del giudice sia un grosso problema, perché si trova di fronte al crimine, e il crimine è comunque, dal punto di vista filosofico, un male, perché è qualcosa che ha distrutto un ordine, quantomeno una legge che doveva dare delle regole, ha distrutto delle regole. E quindi come giudico? C'è la legge, ma c'è solo la legge, ci sono anch'io. E lo sguardo compassionevole è sempre uno sguardo, secondo me, umano o animale, se vogliamo. Ecco. Ah? È uno sguardo di bene, è uno sguardo di bene, perché in effetti la compassione che ti fa vedere anche l'altro ti fa essere più contento, no? L'occhio diventa più contento, è uno sguardo diverso rispetto allo sguardo del puro male, che è sempre un po' torvo, no? Se non ci sono altre domande, ringraziamo, facciamo una pausa. Ma io vorrei che, grazie, io vorrei che chi non ha già letto il libro, se modestamente, se potesse, lo portati per anche venderli a 15 euro uno, se qualcuno. Aspetta, li mettiamo lì, li mettiamo qua, c'era anche questo intento, e se no pazienza, va bene lo stesso. Grazie, grazie. Aspetta che finisco. Sì, tranquillo.